gioco con lo scemo del villaggio. Sono sano intelligente, sempre chiuso in aspirare. Non sapevo che la gente mi amava da cretino. Thank you.